Nella precedente conversazione abbiamo visto come è organizzata la Chiesa, cioè abbiamo visto la Chiesa come società, sotto molti versi, umana. Ci rimane ancora da vedere un altro aspetto della Chiesa, e cioè la Chiesa come mistero. E per vederla partiamo questa volta da un altro problema. Il cristiano è colui che segue gli insegnamenti di Gesù. Ma Gesù ha parlato in una lingua semita, probabilmente l'aramaico. I suoi insegnamenti poi ci sono stati tramandati dagli apostoli e si sono fissati nel Nuovo Testamento, serie di libri che è giunta a noi in lingua greca. Inoltre, ogni testo scritto va interpretato, soprattutto un testo che dà delle norme di vita. Conclusione, assai presto si è posto nella Chiesa il problema di stabilire qual è l'esatto insegnamento di Gesù. Il primo problema è se gli apostoli hanno capito bene, e attraverso l'atto di fede noi crediamo, noi cristiani crediamo, che abbiano capito bene. Ma il secondo problema è che il loro insegnamento è stato tradotto in greco. Il terzo problema è come va interpretato il loro insegnamento, e dunque a volte concretamente possono nascere questioni di interpretazione dell'insegnamento di Gesù. Vi faccio un esempio molto semplice. Nel Vangelo di Matteo Gesù dice: chi non odia suo padre e sua madre non può essere mio discepolo. Allora un buon cristiano, ogni volta che arriva a casa, dà una buona razione di botte ai genitori. Così dimostra che li odia e pratica il Vangelo. Ovviamente non credo sia questo il pensiero di Gesù, l'intenzione di Gesù. Questa è una tipica frase che va interpretata alla maniera ebraica. Nella lingua ebraica non c'è il concetto di più e di meno, per cui in ebraico non si può dire amar di più o amar di meno. E allora il significato di quella frase di Gesù è: se uno ama suo padre e sua madre più di me, non può essere mio discepolo. Ma in ebraico così non si può dire, e allora lui deve dire: chi non odia suo padre e sua madre non può essere mio discepolo. Ecco allora che sorge il problema di interpretare esattamente il pensiero di Gesù. E a primo livello Gesù ha garantito ai cristiani lo Spirito. Lo Spirito di Gesù, cioè la mentalità di Gesù, il modo di pensare di Gesù, è dato dai cristiani attraverso tutta la catechesi, tutto l'insegnamento tradizionale che culmina con l'accettazione di esso nel battesimo. Parlo del battesimo degli adulti. I cristiani hanno lo Spirito, ma qualche volta può succedere che un cristiano interpreti in una maniera e un cristiano interpreti in modo radicalmente opposto. Se avete presente, a suo tempo abbiamo letto capitolo 14 della lettera ai Romani, e c'erano dei cristiani che ritenevano lecito mangiare di tutto, ed erano in buona fede. C'erano dei cristiani che invece mangiavano soltanto verdura per non mangiar carne immolata agli idoli, e anche essi in buona fede. A questo punto come dobbiamo comportarci? E Paolo aveva dato una risposta: ognuno si comporti secondo la sua coscienza, perché siete opposti nel comportamento, ma siete convergenti nel movente, nel motivo, lo fate per Dio, dunque andate avanti tranquilli. Ma non sempre queste risposte sono così chiare, e allora ecco che a primo livello ognuno di noi cristiani deve capire cosa vuole Gesù da lui in quel momento, qual è la volontà di Dio. manifestatagli da Gesù in quel momento. Ma possono nascere anche dei dubbi, e nella storia molte volte sono nati dei dubbi. Ne prendo uno recente. È lecito o no alle donne cristiane usare le pillole anticoncezionali? E allora voi sentivate un prete che diceva in un modo, un vescovo che diceva in un modo, un altro vescovo che diceva in un altro, insomma, cosa ha pensato Gesù? E in questo caso è inutile andare a chiedere al Nuovo Testamento cosa ha pensato Gesù, perché Gesù questo problema non l'ha risolto. Gesù ha messo dei principi generali dai quali dedurre, e onestamente qualche prete, qualche teologo, qualche biblista deduceva in un modo e qualche biblista deduceva in un altro. E allora, proprio nel caso della coscienza dubbia, come dobbiamo fare? Per rispondere a questo problema procediamo per gradi, e prima di tutto ci riportiamo alle origini. Quando erano ancora vivi gli apostoli, il criterio di verità, soprattutto in caso di dubbio, in caso di deviazione, in caso di qualche coscienza erronea che portava fuori anche altri, il criterio di verità erano gli apostoli. Ci si rivolgeva a lui, a loro, e loro riferivano che cosa avevano capito di Gesù, forti anche del fatto che Gesù aveva detto: chi ascolta voi, ascolta me. Ma molti degli apostoli hanno preferito raccontare a voce i fatti e i detti di Gesù che loro avevano visto. Non li hanno scritti. Coloro che hanno ascoltato gli apostoli e hanno creduto alla loro parola hanno poi a loro volta trasmesso l'insegnamento degli apostoli. Si è creata così una tradizione orale su Gesù, e poi questa tradizione orale pian piano è andata a fissarsi in documenti scritti. Abbiamo visto che il primo documento cristiano scritto che ci è giunto è la prima lettera ai Tessalonicesi, che è dell'anno 51, e visto che Gesù è morto nel 30, per circa 20 anni almeno il cristianesimo c'era già, la gente si comportava da cristiana, eppure non c'erano ancora i documenti. Alla radice di tutta questa tradizione orale c'era l'insegnamento degli apostoli, perché erano ancora vivi, in grado di intervenire a voce per iscritto per correggere eventuali deviazioni, rettificare errate interpretazioni, completare insegnamenti lacunosi che poteva capitare che qualche apostolo avesse dato. E proprio in questo clima cominciano a sorgere nelle comunità cristiane vari scritti, o di apostoli, o di Paolo che si era convertito dopo la morte di Gesù e che affermava di averlo visto risorto, o di discepoli che avevano raccolto direttamente l'insegnamento orale di qualche apostolo. E la necessità di mettere per iscritto tutte queste cose nasceva dal fatto che gli apostoli stavano morendo. Quella fine del mondo che gli apostoli annunciavano, che qualcuno aveva capito che gli apostoli annunciassero, non era venuta, e allora c'era rischio che il loro insegnamento venisse manipolato, venisse alterato. Ecco perché all'interno delle comunità cristiane sorsero questi scritti. Però nello stesso tempo sorsero anche degli scritti falsamente attribuiti agli apostoli. E allora si è incerti. Come si fa a stabilire quali sono veramente i libri che hanno alle spalle qualche apostolo che può garantire della verità dell'insegnamento, e quali invece sono, abbiamo detto, apocrifi, cioè falsamente attribuiti agli apostoli? E noi vediamo che furono le comunità cristiane a giudicare quali erano i libri da accettare come vincolanti per la fede, e l'hanno fatto in base ad un criterio fondamentale: libri che sono conformi alla tradizione apostolica. E così si è formato quella serie di libri che chiamiamo il Nuovo Testamento, che la tradizione cristiana prima ha letto insieme ai libri dell'Antico Testamento. E aggiungendo alla tradizione ebraica questi 27 libri del Nuovo Testamento, hanno chiamato Bibbia questa volta una serie di 46 più 27, cioè 73 libri. In questi libri riconoscevano la linea del comportamento cristiano. L'importanza maggiore ce l'avevano certamente i libri del Nuovo Testamento, ma questi libri dovevano essere letti nella prospettiva dell'Antico Testamento. Leggendo ora i documenti del Nuovo Testamento, si vede che il punto fondamentale che gli apostoli hanno tramandato su Gesù è che egli è risorto. Questo lo sappiamo chiaro. Però per gli apostoli la risurrezione non è solo importante come fatto realmente successo, ma anche come garanzia che Gesù stesso ha dato per essere creduto quando diceva di essere il figlio di Dio, di portare la parola di Dio, cioè la verità. E l'atto di fede negli apostoli è essenzialmente accogliere questa testimonianza. Chi sceglie di dar fiducia agli apostoli quando trasmettono il fatto eccezionale della risurrezione non ha più difficoltà a fidarsi di loro per tutto quanto raccontano su Gesù. Una volta ingoiato l'elefante, non si ha difficoltà ad ingoiare i piccoli moscerini. E perciò viene ad accettare che gli apostoli abbiano tramandato in modo sostanzialmente fedele i fatti e i detti di Gesù, abbiano interpretato correttamente il senso delle sue parole, anche adattandole a circostanze nuove della vita delle singole comunità cristiane, e abbiano infine fatto su Gesù un discorso vero quando dissero che parlava a nome di Dio e che quindi portava la verità di Dio. E ciò vale non solo per i dodici scelti da Gesù, ma anche per Paolo, in quanto le comunità cristiane del primo e del secondo secolo hanno accettato i suoi scritti al pari di quelli degli altri apostoli, come ci garantisce la seconda lettera di Pietro al capitolo 3, i versetti 15 e 16. E tra le varie affermazioni che gli apostoli ci riferiscono dette da Gesù, ce ne sono anche alcune riguardanti la Chiesa. E vi ricordo che per Chiesa qui intendiamo l'insieme di tutti i cristiani. Ora, Gesù ha detto: «Amen, amen, dico a voi. Quanto legherete sulla terra sarà legato in cielo, e quanto scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo». Questo si trova al capitolo 18 di Matteo, versetto 18, ed è detto non agli apostoli, ma a tutti i discepoli. Ora, il potere di legare e di sciogliere è una di quelle parole, quelle frasi, che va interpretato. Cosa vuol dire legare e sciogliere? Perché sia comprensibile, mi riferisco alla tradizione ebraica, perché il Vangelo di Matteo, come sappiamo, è un Vangelo scritto in ambiente ebraico e per ebrei. Ora, una volta un giovane è andato da un rabbino di nome Shammai e gli ha posto questo quesito: è lecito fare 300 passi a piedi di sabato, oltre quelli che non si contano, per andare in sinagoga? Posso dunque girare di sabato facendo 300 passi? Voi direte: ma che strano. Certo, i passi di sabato dovevano essere anche contati, ma quanti? E Rabbi Shammai studia il caso, poi gli dice: allora, 300 passi li puoi fare, poi non devi superare i 1500. La formula tecnica era Rabbi Shammai scioglie. Scioglie vuol dire il caso prospettato casca o non casca sotto la legge. In questo caso sciogliere vuol dire non casca sotto la legge. E il ragazzo poi è andato da un altro rabbino, Rabbi Hillel, che era di manica più stretta, e gli ha posto lo stesso quesito, 300 passi a piedi. Rabbi Hillel studia e poi gli dà la risposta. Hai violato il sabato, perché i passi non possono essere 300, ma uno in meno, massimo 299. La formula era Rabbi Hillel lega. Il caso prospettato dei 300 passi casca sotto il sabato, è violazione del sabato. Allora, legare e sciogliere è il potere che hanno i discepoli di interpretare l'ambito della legge, come si estende la legge. Altre parole di Gesù le troviamo in Giovanni capitoli 14 e 16. Gesù dice: io pregherò il Padre, che vi darà un altro paraclito, un altro difensore, affinché sia con voi nei secoli, lo spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede né lo conosce. Voi lo conoscete, perché rimane presso di voi e sarà in voi. Il difensore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel nome mio, vi insegnerà tutto e vi farà ricordare tutte le cose che io dissi a voi. Ecco la funzione dello Spirito di Gesù. Ancora in Giovanni 16, quando sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà verso tutta la verità. Infatti non parlerà da se stesso, ma dirà quanto ascolta e vi annuncerà le cose a venire. Dunque la funzione dello Spirito è di far entrare i discepoli, tutti i discepoli, nella verità. Non solo Gesù, ma anche gli apostoli, in particolare Paolo, hanno fatto delle affermazioni sulla Chiesa. Per esempio, nella prima lettera a Timoteo, al capitolo 3, Paolo dice: la casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e fondamento della verità. Non è Dio colonna e fondamento della verità, o meglio, non è solo Dio, perché non c'era caso di dire per Paolo che Dio è colonna e fondamento della verità. Dio non è colonna e fondamento, Dio è la verità. Colonna e fondamento della verità è la Chiesa. Ancora, ai Tessalonicesi, esattamente nella prima lettera, al capitolo 4, Paolo dice: sapete quali istruzioni abbiamo dato a voi da parte del Signore Gesù. Pertanto chi disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma il Dio che ha anche donato a voi il suo Spirito. Dunque i cristiani hanno lo Spirito di Gesù. Ancora, nella prima lettera di Giovanni, l'autore scrive, al capitolo 2, quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui, cioè da Gesù, rimane in voi e non avete necessità che qualcuno insegni a voi. Ma come la sua unzione insegna a voi tutte queste cose ed è vera e non è menzognera, e come insegnò a voi, così rimanete in Lui. Questa unzione è chiaramente lo Spirito del Signore, cioè lo Spirito Santo, che i cristiani hanno ricevuto. Da questi testi del Nuovo Testamento deriva che lo Spirito di verità, cioè lo Spirito di Gesù, è costantemente presente nei discepoli di Gesù e li assiste in modo che essi non errino nell'interpretare quanto Gesù ha insegnato ed è contenuto nella tradizione orale e scritta. Questa è proprio l'infallibilità della Chiesa. L'infallibilità, dunque, è il potere, dovere, di interpretare con sicurezza il senso delle affermazioni di Gesù e degli Apostoli in relazione alla vita del cristiano. Riguarda perciò la fede cristiana e la morale cristiana. Ora, questa idea che la Chiesa sia infallibile era già espressa nei secoli primi del cristianesimo. Per esempio, già Melitone di Sardi, a metà del secondo secolo, diceva: la Chiesa è deposito della verità. Cipriano di Cartagine diceva: la sposa di Cristo, cioè la Chiesa, non sarà mai adultera. Lei ci conserva per Dio. Non può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa per madre. Origene dice: la Sacra Scrittura afferma che tutta la Chiesa di Dio è il corpo di Cristo, animato dal Figlio di Dio. Come l'anima vivifica e muove il corpo, così la parola, il Logos, cioè Gesù Cristo, muove come si conviene e anima l'intero corpo che è la Chiesa. Concretamente, perciò, l'infallibilità della Chiesa è stata espressa attraverso una piccola sintesi, che è un po' un principio tradizionale. Questa sintesi è contenuta in un testo di Vincenzo di Lerins degli anni 400. È norma di fede ciò che da tutti, dovunque e sempre è stato creduto. Questa è un po' la sintesi tradizionale. La fede cristiana si basa sulla tradizione della Chiesa, cioè della comunità cristiana, che ha lo spirito di Gesù, il quale garantisce che la comunità cristiana non erri. Ma attenzione, tutti, dovunque e sempre. Già, ma è in caso di controversia, cioè in caso in cui le chiese siano divise su certi punti, soprattutto se questi punti sono fondamentali? E chi determina quali sono questi punti fondamentali? Ecco allora che Gesù ha pensato che nella Chiesa, oltre che infallibile la Chiesa, c'è anche l'insieme degli Apostoli. Gesù ha dato dunque l'infallibilità, prima di tutto, agli Apostoli. E poi a Pietro. E c'è un modo semplice di dimostrarlo. L'infallibilità data a Pietro. Gesù dice, è riferito nel Vangelo di Matteo al capitolo 16: io dico a te, Pietro, che tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ade, cioè il luogo dei morti, non prevarranno contro di lei. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Il potere di legare e di sciogliere, che in Matteo 18 era dato a tutta la comunità cristiana, è dato anche a Pietro. Dunque Pietro ha la stessa infallibilità, la stessa autorità della comunità cristiana. Ancora, in Luca 22, Simone, Simone, dice Gesù, ecco il Satana cercò di vagliarvi come il grano, io pregai per te perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma, sottinteso nella fede, i tuoi fratelli. E difatti, più volte poi nel libro degli Atti, Pietro agisce come capo, come responsabile, e rivela di avere la stessa autorità di Gesù Cristo. Ma la stessa infallibilità della Chiesa e di Pietro, Gesù l'ha data anche agli Apostoli. Quando, cito solo un testo, disse, per esempio in Luca 10, chi ascolta voi, ascolta me, chi disprezza voi, disprezza me. O ancora in Giovanni 17, dice, io ho comunicato loro, cioè agli Apostoli, la tua parola. La tua parola è verità, custodiscili nella verità. Dunque gli Apostoli hanno questa parola di Gesù a loro favore di rimanere nell'autorità, nella verità, chiedo scusa. Gli apostoli affermano anche, per esempio nel libro degli Atti, di agire con l'autorità dello Spirito e di decidere autoritativamente la non necessità della circoncisione. Può essere interessante, per esempio, leggere proprio questa lettera che gli apostoli radunati in concilio hanno scritto ai cristiani del paganesimo, provenienti dal paganesimo. Dicono, la lettera dice, gli apostoli, gli anziani, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dal paganesimo, salute, poiché abbiamo sentito che alcuni di noi sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi, dunque vedete c'era controversia e discussione, senza che noi avessimo dato loro alcun incarico, abbiamo ritenuto concordemente di scegliere alcuni per portarvi questo messaggio. Abbiamo scelto Giuda e Sila e dice, dicono al versetto 28, infatti lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso di non imporvi altro peso eccetto queste cose necessarie, cioè eccetera. Dunque gli apostoli dicono che agiscono con l'autorità dello Spirito Santo. E fin qui i dati del Nuovo Testamento. Allora, dal Nuovo Testamento emerge che sono infallibili, primo, la Chiesa, cioè l'insieme di tutti i cristiani perché hanno lo Spirito di Gesù Cristo, due, Pietro, tre, gli Apostoli. Ma la tradizione cristiana, cioè la Chiesa, ha sempre e dovunque interpretato che queste frasi di Gesù dette a Pietro e agli Apostoli si debbano applicare anche ai successori di Pietro e ai successori degli Apostoli, cioè ai Vescovi di Roma e ai Vescovi radunati in concilio. È proprio qui uno dei punti di disaccordo tra cattolici e protestanti. I protestanti dicono l'infallibilità che Gesù ha dato a Pietro è morta con Pietro, perché nel Nuovo Testamento non sta scritto Pietro e i suoi successori. L'infallibilità che Gesù ha dato agli apostoli è morta con l'ultimo apostolo, perché Gesù non ha detto gli apostoli e i loro successori. Mentre i cattolici ritengono che nella Chiesa siano infallibili, uno, il Papa, due, il Concilio Ecumenico. Non è il Papa che un mattino si sveglia e dice infallibilmente, dichiaro di essere infallibile. Non è un concilio ecumenico che un giorno definisce infallibilmente, dichiariamo di essere infallibili, ma è che la Chiesa ha sempre e dovunque riconosciuto al concilio ecumenico e al Papa l'infallibilità. E per illustrarlo cominciamo dal concilio ecumenico. Il concilio ecumenico ha la stessa infallibilità della Chiesa. Questo l'hanno accettato sempre, in particolare a proposito dei primi concili ecumenici, quello di Nicea del 325, quello di Costantinopoli del 381, quello di Efeso del 431, quello di Calcedonia del 451, eccetera. Questo è chiaro, le chiese hanno accettato queste definizioni. È vero che qualche piccola frangia si è staccata, però molte di queste frange sono ormai scomparse nella Chiesa. Tuttavia, la Chiesa ha messo al concilio ecumenico, nell'uso della sua infallibilità, alcune precise limitazioni. La prima, deve essere ecumenico questo concilio, cioè universale. I vescovi, tutti i vescovi, devono almeno essere stati invitati. Se poi qualcuno non ha potuto venire, pazienza. Secondo, può definire solo verità che riguardino la fede o la morale, non la storia, la politica, le scienze, eccetera, eccetera. Terzo, il concilio deve dire espressamente, in modo inequivocabile, che intende vincolare la fede di tutti i cristiani. La formula che spesse volte hanno usato in latino è anatema sit, cioè chi pensa al contrario da quello che diciamo noi sia scomunicato. Quarto, il concilio deve procedere all'unanimità o a stragrande maggioranza, perché non basta il parere di alcuni pochi o anche solo il 50% più uno. Se le idee non sono ancora chiare, fermi tutti, pensiamoci ancora per arrivare all'unanimità, per il principio che tutti, dovunque, sempre devono aver creduto a una certa verità. Ora i vescovi al concilio non cascano dal cielo, i vescovi sono i portavoci della fede comune. Non potendo interrogare per ragioni pratiche tutta la Chiesa perché si esprima, e allora si interrogano i capi nella Chiesa che hanno imparato la fede dalla loro nonna, dalla loro mamma, nella loro comunità, insomma, e quindi portano la fede tradizionale comune. E questo per il Concilio direi che è più facile. Più delicato è il discorso della infallibilità del Papa. E tuttavia, il discorso tiene. Perché a volte può capitare che intere comunità, magari con i loro vescovi, diano interpretazioni divergenti su qualche punto della fede cristiana. Prendiamo un esempio. Prendiamo una vecchietta analfabeta che si trovi in Sud Tirolo e che abbia un orecchio verso l'Austria e la Germania e un orecchio verso l'Italia. Se sente la Germania, sente dire: guai a te se fai opere buone, le opere non servono per la salvezza si ha dalla sola fede. Se sente invece l'orecchio italiano, sente dire: guai a te se non fai le opere buone, perché la fede senza le opere è morta. E a questo punto, io vecchietta, cosa devo fare? Le 1.000 lire al marocchino che mi pulisce i vetri della macchina, gliele do o non gliele do? E la carità la devo fare o non la devo fare? E chi ha ragione in questi casi? In questi casi l'unanimità non c'è più. Ho detto tutti dovunque sempre, qui non c'è. Almeno oggi, in passato, può darsi ci fosse, ma io, povera vecchietta, come faccio a studiare il passato se non so neanche leggere? Ed ecco allora l'utilità o la necessità anche dell'infallibilità del Papa. Perché certe volte certi errori possono diffondersi rapidamente e non è così facile convocare un concilio ecumenico. E allora ecco che la Chiesa, sempre e dovunque, ha riconosciuto che il Vescovo di Roma è infallibile in quanto successore di Pietro e portavoce della fede di tutta la Chiesa. Perché il Vescovo di Roma? Perché a Roma ha insegnato Pietro. Roma conserva la tradizione di Pietro, a cui Gesù ha garantito l'infallibilità. Ora, le prove storiche di questa affermazione sono molte, almeno fino al secolo XI. Poi, con la divisione fra Roma e Costantinopoli, l'affermazione venne contestata in Oriente. Ora vorrei citare solo tra i molti alcuni pochi dati. Verso il 96 d.C., Clemente, vescovo di Roma, interviene su questioni interne alla Chiesa di Corinto, senza che nessuno metta in discussione il suo diritto di farlo. Come secondo dato, la presidenza dei primi concili ecumenici, IV-V secolo e anche tutti quelli dopo, viene sempre affidata al vescovo di Roma, anche se i concili ecumenici sono tenuti in Oriente. Nessuno mette in discussione il primato del Vescovo di Roma per presiedere i concili ecumenici. Al Concilio di Calcedonia, poi, nel 451, in Oriente dunque, perché Calcedonia è un sobborgo di Costantinopoli, dopo che fu letto il documento che il Papa di Roma, Leone Magno, aveva inviato al Vescovo di Costantinopoli, Flaviano, i vescovi si alzarono in piedi, applaudirono, dissero: questa è la fede dei padri. Pietro ha parlato per bocca di Leone. Questa frase non fu detta a Roma, questa frase fu detta a Costantinopoli. Ed è per questo che dopo lunghe discussioni, il Concilio Vaticano I, il 18 luglio 1870, ha sintetizzato la fede tradizionale definendo come dogma di fede l'infallibilità del Papa. Vi ricordo che a questo concilio, nella prima votazione esplorativa, 52 vescovi erano contrari, ma per ragioni politiche, per non irritare l'Austria, perché non si dimentichi che siamo nel 1870, quando i piemontesi già assediavano Roma e l'hanno poi presa il 20 settembre di quell'anno, il 18 luglio, sono poi 3 mesi prima, e temevano i vescovi che l'Austria non intervenisse poi a difendere Roma, come di fatto poi non è intervenuta. Ma alla votazione finale erano solo 2 contrari, in realtà non hanno votato perché se ne sono andati prima, ed erano Monsignor Ketteler, tedesco, e Monsignor Dupanloup, francese. Poi il Dupanloup si è sottomesso, Ketteler non si è sottomesso e ha fondato il Partito dei Vecchi Cattolici, la setta, il gruppo dei Vecchi Cattolici, ma non esistono quasi più. Ora, dopo lunghe discussioni, guardate come hanno scritto il testo della definizione. Ve lo leggo in una traduzione letterale mia. Il Romano Pontefice, quando parla ex cattedra, che vuol dire dalla sedia, e spiega, cioè quando, adempiendo il suo compito di pastore e dottore di tutti i cristiani, in base alla sua suprema autorità apostolica, definisce una dottrina riguardante la fede o la morale che tutta la Chiesa deve ritenere, così ha spiegato cosa vuol dire ex cattedra, per l'assistenza divina a lui promessa nel Beato Pietro, l'assistenza divina a lui promessa nel Beato Pietro, gode di quella infallibilità di cui il Divino Redentore ha voluto dotare la sua Chiesa nel definire una dottrina riguardante la fede o la morale. Dunque il Papa ha la stessa infallibilità della Chiesa. Perciò le decisioni dello stesso Romano Pontefice sono irreformabili di per sé e non per il consenso della Chiesa. E hanno messo questa frase per la ovvia ragione che ho già detto, perché ha senso l'infallibilità soprattutto quando la Chiesa è divisa, e allora non si può avere il consenso della Chiesa, e allora interviene il Papa. E conclude: se qualcuno osa contraddire questa definizione, sia scomunicato. Su questa definizione vorrei fare velocemente alcune considerazioni. La prima l'ho già fatta: il Papa ha la stessa infallibilità che ha la Chiesa. Fondamento di tale infallibilità non è il Papa stesso, non è il Papa che dice infallibilmente, dichiaro di essere infallibile perché sarebbe un circolo vizioso, ma il Papa è infallibile perché la Chiesa gliel'ha sempre riconosciuta. La terza osservazione che vorrei fare è che l'infallibilità del Papa è funzionale, cioè non è legata alla persona sua, ma è legata alla funzione e servizio che svolge di Vescovo di Roma nei confronti di tutte le altre Chiese. E l'importanza del Vescovo di Roma non è dovuta al fatto che era il Vescovo della capitale del mondo, conosciuto di allora con qualche presunzione, insomma, ma perché è il successore dell'Apostolo Pietro. La fede della Chiesa di Roma esprime la fede tradizionale ed è metro su cui misurare le Chiese. Però il Papa ha certi limiti nell'esercizio della sua infallibilità. La Chiesa gli ha messo certi limiti. Primo, il Papa è infallibile solo in ciò che riguarda la fede e la morale. Questo è detto anche dal Concilio Vaticano I, dunque non per ciò che riguarda tutto il resto, le scienze, la matematica, la fisica, la storia e la geografia. Il Papa è infallibile solo quando lo dice espressamente in modo inequivocabile. Dice che intende vincolare la fede di tutti i cristiani. E a questo proposito vorrei far notare che tra infallibilità e non infallibilità non c'è una mezza infallibilità, come qualcuno a volte pensa. Il Papa non è infallibile in questo caso, ma è come se lo fosse. O lo è o non lo è. Perciò il Papa è infallibile solo quando lo dice espressamente. Se intende usare la sua infallibilità, ma lo deve dire, allora i cristiani sono tenuti ad obbedire. Se invece non intende usare la sua infallibilità, allora sulle affermazioni che il Papa fa non è impegnata la sua autorità infallibile, e allora un cristiano può discutere. Valuta se il Papa ha delle valide ragioni e le ragioni che il Papa porta lo convincono, obbedisce, perché il Papa ha portato delle ragioni convincenti. Se invece il Papa non ha portato ragioni convincenti o che non convincono del tutto, ed il cristiano può anche andare contro il Papa, in questo caso può essere anche in armonia con Gesù Cristo, anche se non lo è con il Papa. Questo perché il Papa stesso, se non è infallibile, è sottomesso anche alla prova di quanto dice, alle prove delle affermazioni di quanto dice. E a proposito della infallibilità, a volte si sente fare questa obiezione: e se il Papa impazzisse e definisse come infallibile una verità di fede, una verità che la Chiesa non ha mai creduto? E a questo punto la risposta può venire solo dallo Spirito Santo, e cioè lo Spirito Santo garantisce che questo non avverrà mai, cioè non è possibile che ci sia contraddizione fra Papa e Chiesa. E comunque questo nella storia non è mai successo, cioè non è mai successo che un Papa abbia definito una verità e che un concilio abbia definito una verità contraria, o che un Papa dopo abbia definito una verità contraria. Vorrei poi però precisare che il Papa è infallibile quando lo dice, ma non è impeccabile. Il Papa personalmente può anche non essere sempre coerente con la fede che professa. Il Papa si batte il petto anche lui tutte le domeniche quando celebra la messa, il Papa si confessa anche lui. E infine dico di distinguere tra infallibilità del Papa e primato del Vescovo di Roma. Il Vescovo di Roma è il primo dei Vescovi, ma l'infallibilità è altra cosa. Il primato è un primato organizzativo, e allora certe volte, per questioni completamente discutibili ma per uniformità, il Papa decide e i cristiani si adeguano senza grossi problemi. In questioni del tutto opinabili si va avanti scegliendo quella che propone il Papa, ma è possibilissimo che un Papa scelga una cosa e poi un Papa in un altro momento ne scelga un'altra per le mutate condizioni storiche, ma in questo caso né il primo Papa aveva definito e né normalmente il secondo. Invece, quando il Papa usa la sua infallibilità, allora lì non può più capitare che ci sia una affermazione contraria da parte di qualche altro Papa. Se capitasse questo, io abbandonerei la Chiesa Cattolica, ma per adesso non è mai capitato. E allora a questo punto, per concludere, come si pone il cristiano di fronte all'infallibilità? In concreto, come fa il cristiano a sapere se una certa affermazione riguardante la fede è vera? Prima di tutto ha come criterio la sua coscienza, ma se la sua coscienza è dubbia o se la sua coscienza è errata, qual è la risposta? La tradizione, sostenuta da decisioni di papi e concili ecumenici, ha dato la seguente risposta: è vera un'affermazione riguardante il cristianesimo che è scritta inequivocabilmente nel Nuovo Testamento. 2. È vera un'affermazione del cristianesimo che è stata creduta come verità di fede da tutti, dovunque e sempre. Per esempio, la risurrezione di Gesù non è mai stata definita come dogma di fede da nessun papa, da nessun concilio. 3. È norma di fede, è vera un'affermazione che è stata definita infallibilmente da un papa o da un concilio ecumenico. Al di fuori di questi casi, il cristiano può personalmente accettare come verità di fede quello che dice il Papa o quello che insegna qualche concilio, anche in modo non vincolante, ma non ha diritto di imporle ad altri e può anche dissentire, può anche dissociarsi, pur nel rispetto, perché c'è da pensare che il Papa o il concilio, prima di fare certe affermazioni, quantunque non infallibili, ci abbiano pensato. Quando si tratta di una definizione infallibile, il porsi fuori del contenuto di quella definizione equivale, porsi fuori dalla verità, equivale ad una eresia. Con questa riflessione vi invito dunque ad accogliere quello che il Papa dice. Se lo dice in modo infallibile, si accetta e si obbedisce. Se lo dice in modo non infallibile, la cosa si può anche discutere, sempre nel rispetto, come dicevano con una bella formula i medievali: in necessaris unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Nelle cose necessarie ci vuole unità di pensiero, nelle cose dubbie libertà, sempre la carità. Grazie per l'ascolto.